Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Si apre la copertina del quarto volume di Eclettica della settimana, quello del giovedì. Benvenuto sulle frequenze di Rock FM da parte di Giulio Caperdoni, dove questo termine frequenze, vediamolo nel senso più largo possibile. Ci sono perlomeno quattro possibilità, a meno che me ne stia dimenticando qualcuna, per poter ascoltare via etere, via satellite, via streaming e poi in differita via podcasting. Benvenuto quindi in questo quarto volume in cui stiamo per cambiare l'autore degli Incipit dopo aver già avuto nel corso della settimana Jorge Luis Borges e Alicia Jiménez Bartlett. All'inizio degli anni 90, il nostro amico Knulp dovette passare diverse settimane in ospedale. E quando venne dimesso si era già a metà febbraio, con un tempaccio spaventoso, così che dopo pochi giorni di vagabondaggio sentì che gli era di nuovo tornata la febbre e dovette pensare a procurarsi un ricovero. Amici non gli erano mai mancati ed avrebbe trovato accoglienza cordiale in quasi tutti i villaggi dei dintorni. Ma su questo punto era particolarmente orgoglioso, tanto che se accettava qualcosa da un amico, quest'ultimo poteva considerarsi onorato. Questo era l'incipit di Tre storie della vita di Knulp, di Herman Hesse. Come on, turn around in my head. It's like a bisogno di andare in bagno. Palla qui e basta. Oh. Ah. Ah. Come riscalda bene. Thank you. Loro dichiarano di fare canzoni pop melodrammatiche. Avete appena avuto la possibilità di averne una conferma diretta con l'ascolto di Sleep of Shylom. Provengono da Baltimore nel Maryland, si chiamano Arboretum, e i componenti di questa formazione vengono da diverse esperienze. C'era chi suonava per Bonnie Prince Billy, chi suonava per Cass McCombs, chi suonava negli Stars of the Dogon, insomma tante esperienze diverse che adesso sono confluite all'interno di questo nuovo progetto di nome Arboretum. Si prosegue rimanendo negli Stati Uniti, spostandosi però un po' più a nord, a New York City, da dove provengono i Battles. We'll be right back. Se dall'esterno percorro con lo sguardo la mia vita, essa non appare particolarmente felice. Meno che mai mi è possibile, tuttavia, giudicarla infelice, malgrado ogni errore. Ma, infine, è davvero stolto preoccuparsi di felicità e infelicità, giacché a me sembra che farei maggiore difficoltà a privarmi dei giorni più infelici, anziché di tutti quelli sereni. Se in una vita umana importa accettare consapevolmente l'ineluttabile, gustare appieno il bene e il male, e conquistare, oltre al destino esteriore, anche uno interiore più autentico e non casuale, la mia vita non è stata né povera né cattiva. Questo era l'incipit di Gertrude, di Hermann Hesse. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested when the road is cold. Until justice rolls down and righteousness, like a mighty stream, keep alive the names of those who put their lives out on the front line and died just trying to live and breathe. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested when the road is cold. See Medgar Evers when the road is cold. Andrew Goodman when the road is cold. James Chaney when the road is cold. Michael Schwerner and Emmett Till when the road is cold. I'll be rested. When the road is cold. Denise and Cynthia when the road is cold. Addie Mae Collins when the road is cold. Herbert Lee, Willie Brewster, Louis Allen. I'll be resting. So I'll be rested when the road is cold. I'll be rested. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested. I'll be rested when the road is cold. See Fred Hampton when the road is cold. Brother Malcolm when the road is cold. Robert Kennedy when the road is cold. Reverend Martin Luther King when the road is cold. Oh, what a time. Oh, what a time. He'll say, servant, servant, well done. Come on home and rest your weary bones. I'm gonna join the heavenly choir. Oh, look at here. Sister Mahalia Jackson. Brother Archie Brownie. Sister Clara Ward. Dr. Thomas A. Dorsey. The Reverend Julius Cheeks. Good God. And look over there, there's old Dr. Watts. Sister Marion Williams. Sister Dorothy Love Coates. Oh, my, my, my. There he is. Papa Staples. And you got your guitar with you. The choir, and we're gonna sing hallelujah.